bene arrivati a questa apertura di Ritmi e Danze del Mondo 20 anni. Vent'anni che ci arrischiamo a dialogare, non solo con le parole, ma con gesti, scelte, passi concreti che vogliono costruire incontri, generare scambi, cammini tra persone, gruppi, associazioni, collettività, avendo scoperto, strada facendo, che la diversità abita la nostra vita quotidiana, anzi, è una componente essenziale e sempre mutevole della vita. La diversità che giorno per giorno sperimentiamo, anche senza rendercene conto, tra uomini e donne, tra più giovani e più anziani, tra appartenenti a culture e a lingue diverse. Una diversità che talvolta ci può far paura, altre volte ci attrae, che spesso è fonte di conflitti e insieme di curiosità e di scambi. Ma viviamo anche la tentazione di una uniformità che ci rassicura, a patto, certo, che tutti la pensino come si comportino, mangino, vestano, lavorino, credano come me. E non sia io a dovermi uniformare agli altri, questo è chiaro, va da sé, no? Avvertiamo nel mondo in cui viviamo, da un lato, la crescita, il manifestarsi di tante diversità, di cui magari un tempo neppure ci accorgevamo, e che rendono sempre più complessa la nostra convivenza. Figli inattesi che vengono ad intrecciarsi con i nostri figli quotidiani a livello di economia, di lavoro, di educazione, di informazione soprattutto. Non è un caso che il tema generatore in questa edizione dei 20 anni sia 20 di dialogo camminando sul filo. Ma anche avvertiamo un silenzioso propagarsi di modelli più uniformi che tendono a livellare o a rendere innocue le diversità. In certi casi a usarle per altri fini che per l'incontro o lo scambio o il disegno di volti e di storie. Piuttosto vengono usate per orientare consumi, stili di vita che rispondano alla crescita del profitto di pochi gruppi multinazionali, ben oltre governi, ideologie, fedi religiose. Una globalizzazione che diventa rullo compressore omologante, oltre ogni possibilità di incontro fra diversità. E le diversità allora tendono a diventare estremismi, marcatori ossessivi di identità semplificate, che non cercano più l'incontro, il dialogo che fa crescere ascoltando, quanto piuttosto cercano la differenza che si afferma gridando, e chi grida più forte sembra abbia ragione. E veniamo al tema di questa serata: il cuore nel mondo, il mondo nel cuore, riscoprirsi nella ricchezza della diversità o delle diversità a confronto con una globalizzazione senza anima. Abbiamo chiesto a due, abbiamo definiti così, mi pare non se la siano presa, a due liberi pensatori, Ermanno Bencivenga, filosofo italiano trapiantato negli Stati Uniti, che ormai da anni fa parte di questa carovana delle ultime danze, un po' per caso all'inizio, poi speriamo con passione, e a Mauro Scardovelli, ricercatore poliedrico, che per la prima volta incontriamo stasera, di aiutarci allora a riflettere su diversità e omologazione. Una volta avremmo detto conformismo, poi si sa, le mode delle parole cambiano. A riflettere, perché siamo convinti che la riflessione sia una componente necessaria, preziosa, per individuare e camminare su quel filo che ci conduca a scoprire che le diversità possono diventare ricchezze condivise, risorse per governare i conflitti e per rendere possibile orientarsi in un mondo complesso, che invece alcuni, per i propri interessi, vorrebbero farci credere semplicisticamente semplice. Crediamo che questo ci aiuti ad entrare nel cuore del mondo in cui viviamo e riconoscere che il nostro stesso cuore è abitato da diversità che ci fanno diventare noi stessi, ben più vari e preziosi di quel che potremmo credere e pensare, e soprattutto di quel che altri vorrebbero farci credere e pensare. Non mi dilungo di più, voi siete venuti per ascoltare Ermanno e Mauro, non me, e per eventualmente interagire con loro, e mi divertirò anch'io poi a giocare con loro. Abbiamo pensato un intervento per ciascuno in cui ci sia la possibilità di approfondire anche un po' queste tematiche, ognuno dal proprio punto di vista, chiaramente, secondo la propria diversità, appunto. Poi abbiamo chiesto che ognuno dei due faccia una domanda all'altro, e così si comincia a intrecciare diversità, e poi voi. A voi la parola, dopo che avremo un po' ascoltato, fatto la fatica anche un po' di rimescolare dentro di noi, grazie a questi interventi, quello che noi pensiamo su diversità, omologazione, dialogo e fini per incontrarci. A voi la parola, chi comincia? Bene, buonasera a tutti, mi sentite bene in fondo? Sì, grazie. Allora, intanto io ringrazio il carissimo amico Don Bruno e tutto il suo splendido gruppo di collaboratori per questo nuovo grandissimo invito. È sempre una gioia tornare qui, questa è la mia terza partecipazione alla vostra festa, e veramente è una festa ritrovarvi. E ringrazio ovviamente tutti voi che siete qui con noi a chiacchierare, e spero veramente che questa diventi un'occasione di dialogo anche fra noi, quindi cominceremo dicendo alcune cose, ma spero che poi diventi una conversazione comune. Allora, nel mio intervento io vorrei porre una distinzione fra due modelli antropologici, cioè modelli di come è fatto, che cosa è un essere umano, suggerendo che il primo di questi modelli sia alla base dell'economia di mercato e dell'ideologia che la sostiene, e il secondo modello invece potrebbe essere alternativo e potrebbe forse darci migliori speranze di una vita più degna e più umana. Il modello che io trovo appunto problematico e che critico da tempo, le cose che un po' vi racconterò, ci sto lavorando da più di 20 anni, e appunto alcuni testi che ho scritto in proposito sono anche disponibili qua, oltre alla tolleranza, il manifesto per un mondo senza lavoro e altri. Il modello che io oppongo, io lo identifico, per avere un punto di riferimento preciso, con Cartesio, e in particolare il discorso sul metodo, ma soprattutto le meditazioni metafisiche del 1641. È un modello che vede l'io, il soggetto, come originario, semplice e assolutamente trasparente a se stesso. Quindi vediamo di spiegare queste tre qualifiche. Originario, cioè ciascuno di noi non deve il proprio essere a nient'altro. Nasce in modo, si potrebbe dire, autoctono e autonomo, del tutto indipendente, come pura cellula di opinione e di arbitrio. È quel che è, appunto, in modo completamente originario. Semplice nel senso filosofico del termine, cioè semplice è ciò che non ha parti, non ha complessità, non ha storia, addirittura l'io cartesiano non ha neanche un corpo, perché il corpo invece è divisibile, il corpo ha parti, e quindi con quel corpo non ci identificheremo. La mente invece è concepita come assolutamente semplice, priva di parti, e come, appunto, dicevo, assolutamente trasparente a se stessi. Io posso non sapere un sacco di cose, certamente su quello che mi circonda, su quello che passa per la testa ad altre persone, su quello che è la struttura dell'universo e degli altri esseri umani. Ma per quanto riguarda me stesso, io sono un'autorità indiscussa. Ho quello che filosofi successivi, come per esempio Wittgenstein, hanno chiamato un accesso privilegiato alla mia soggettività. Sono un testimone assolutamente attendibile. Se volete sapere che cosa penso, che cosa credo, che cosa voglio, dovete chiederlo a me, perché nessun altro può saperlo meglio di me. Anzi, nessun altro veramente lo sa, lo so solo io. Questo è appunto un modello che io trovo profondamente sballato, e per spiegarvi in che senso è sballato, siccome la cosa migliore è sempre confrontare le cose diverse, vediamo come potrebbe essere invece considerato e pensato l'essere umano. Allora, secondo il modello che io invece favorisco, un essere umano è costruito, cioè il mio io è il risultato di un processo di costruzione. Tra l'altro, di un processo di costruzione che non avviene una volta per tutte, continua per tutto il corso della mia vita. Come costruisco? Beh, costruisco mettendo insieme pezzi del mio ambiente, mettendo insieme strategie, comportamenti, piccole mosse, piccole tattiche che imparo da persone che magari hanno lasciato un segno importante su di me, o anche soltanto da persone che incontro casualmente in treno, in metropolitana, fra la folla, e che mi colpiscono per un certo atteggiamento che rimane in qualche modo impresso dentro di me. Freud, uno degli autori che almeno all'inizio della mia carriera mi hanno influenzato di più, diceva che l'io è un precipitato dei nostri oggetti perduti d'amore. Se prendiamo amore in un senso molto ampio e includiamo sotto questo concetto appunto tutti quelli che hanno avuto un influsso su di noi, penso di poter essere d'accordo con questa definizione. Quindi appunto noi siamo questa complessità, come vedete non siamo né originari né semplici, siamo in realtà costituiti da molte parti, e nessuna di queste parti viene da una qualche fonte interiore autoctona, appunto, sono tutte da fuori. Il dentro, ho scritto in un mio libro, non è che un modo di organizzare il fuori, cioè il mio dentro non è altro che il risultato delle mille vicissitudini, o forse dovrei dire un risultato delle mille vicissitudini che questo corpo ha attraversato. E poi non è affatto vero che io sia particolarmente trasparente a me stesso. Ognuno di questi pezzi che mi costituiscono ha una sua prospettiva su tutto il resto, un suo modo di vedere, e quando si deve arrivare a una decisione, appunto, nel migliore dei casi, come cercherò di spiegare fra un attimo, parlano un po' tutti e ognuno ha il suo modo di vedere certamente parziale, e alla fine si cerca di arrivare a una decisione ufficiale che poi si attribuisce a questa struttura io che prende in qualche modo la responsabilità di quel comportamento. Allora, se voi la vedete così, vi rendete conto che la costituzione di un io, la costituzione del mio soggetto come di quello di ciascuno di noi, è un problema politico, perché il confronto fra i diversi è sempre appunto un problema politico. E questo problema politico, che è la costituzione della mia o di qualsiasi soggettività, può essere affrontato con tutti i tipici strumenti che abbiamo imparato dalla politica istituzionale, con tutte le tipiche strategie appunto della politica ufficiale, così come la conosciamo. Qualcuno di noi avrà una politica interiore tirannica, in cui una voce assume potere dittatoriale sulla situazione e tacita o reprime tutte le altre, e parla a nome di tutti senza neanche riconoscere l'alterità. Ci potranno essere strutture, come dicevano gli antichi, a questo ritornerò, oligarchiche, in cui alcune poche voci fanno lo stesso un'operazione tirannica. Ecco, sarebbe bello vedere un'organizzazione veramente democratica, quella che stavo descrivendo prima, in cui quando ci si trova davanti a un passo da fare, quando questo corpo deve fare qualcosa, si chiami a raccolta tutta la diversità interiore che noi siamo, si ascolti in questo consesso tutto quello che ciascuno ha da dire e si cerchi di arrivare appunto a una decisione comune. Quindi, come ho detto prima, il dentro non è un modo, non è altro che un modo di organizzare il fuori, la politica interiore non è altro che un'espressione della politica esterna. E qui arriviamo, perché queste cose ovviamente non nascono adesso nel XXI secolo, arriviamo alle grandi intuizioni di alcuni grandi filosofi greci. Sia Platone sia Aristotele ci hanno insegnato che ogni Stato educa cittadini a propria immagine e somiglianza. Quindi uno Stato tirannico educherà personalità tiranniche, uno Stato veramente democratico dovrebbe educare personalità democratiche, uno Stato neoliberista, sul quale mi aspetto di sentire molte cose interessanti da Mauro fra un attimo, educherà persone fatte in questo modo. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti a che tipo di politica abbiamo intorno e non pensare per un attimo di esserne indenni, che la nostra soggettività, appunto cartesianamente parlando, sia comunque del tutto intatta nei confronti di quello che succede fuori, che noi possiamo essere quello che siamo indipendentemente dal mondo che ci circonda e dalla politica che lo organizza. Non è vero, la politica che organizza il nostro mondo finisce per organizzare anche quello che abbiamo dentro. E qui, sotto, da questo punto di vista, vedendo le cose in questi termini, ci rendiamo conto che l'io cartesiano, visto dal punto di vista che vi sto suggerendo, è in realtà il risultato di un'operazione politica di isolamento. È originario perché nega la sua dipendenza dall'altro, perché dimentica l'altro e si arroga il diritto della propria autogenerazione. È semplice perché nega la sua articolazione interna e quindi nega la struttura intrinsecamente politica del suo essere. È trasparente a se stesso perché nega la mediazione politica che c'è sempre dietro ogni decisione. Ogni decisione, sia pure anche repressiva, è sempre il risultato di un'azione politica. Quindi ogni decisione che noi prendiamo quantomeno taciterà tante altre cose che potremmo fare, che forse avremmo voluto o dovuto fare. Nel dichiararci assolutamente trasparenti a noi stessi, neghiamo questa mediazione politica, neghiamo il lavoro, il lavorio che l'io compie e che costituisce l'io. E quindi rimaniamo, una volta compiuto questo processo politico di isolamento, una volta ridotti veramente a qualcosa di originario, semplice e trasparente, diventiamo sostanzialmente dei consumatori perfetti, perché siamo un puro centro di opinione e di arbitrio assolutamente indiscutibile, incontestabile. Quello che voglio io lo voglio io e basta, non c'è appunto mediazione possibile. Che questo risultato sia appunto un risultato, che ci si arrivi attraverso questo processo politico di isolamento, di negazione della propria vera origine, rimane assolutamente misterioso. Una volta attuata questa operazione ontologica, perché è veramente un'operazione ontologica, veramente un'operazione che dà il segno al nostro essere, possiamo dichiararci origine incontrollata, incontestabile, indiscutibile di tutte le nostre scelte. Poi c'è il fatto che appunto queste scelte, chissà com'è, anche se nascono da questo arbitrio assolutamente personale, anche se sono appunto del tutto originarie in noi, tendono a essere molto simili le une alle altre. E quindi quando per esempio esce l'ultimo modello di iPhone, prodotto peraltro in quello che è diventato il mio paese, perché da 35 anni vivo in California, decine di milioni di persone si mettono in fila per acquistare esattamente lo stesso oggetto con cui fare esattamente le stesse cose. Questa è divertente pensare che il neoliberismo contemporaneo si ispira qualche volta, quando si ispira a qualcosa, quando ancora qualcuno sa leggere e scrivere, al liberismo ottocentesco. E se voi leggete il saggio sulla libertà di John Stuart Mill, che uno appunto dovrebbe essere uno dei padri fondatori del liberismo, lui dice esattamente la stessa cosa. Dice: oggi non siamo più in grado di farci piacere niente se non in massa. Compriamo tutti le stesse cose. Ecco, sembrava, lui l'ho scritto nel 1860 questo, un secolo e mezzo dopo, sembra che effettivamente avesse ragione. Ma perché questo? Perché in realtà qui si sta compiendo un altro tipo di operazione, anche questa autologica e anche questa fraudolenta, di quelle che venivano punite in male bolge nella Divina Commedia. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che quella nostra libertà che noi appunto avremmo per definizione, io faccio quello che voglio e quello che voglio lo so solo io, in realtà è una finzione. La parola libertà, come tutte le parole importanti e molte parole anche meno importanti, è in realtà profondamente ambigua, e su questa parola si combattono delle importanti battaglie politiche. La semantica è un terreno di scontro politico. Che cosa vuol dire libertà? Esistono almeno due sensi della parola libertà. Esiste quella che si chiama libertà negativa, cioè nessuno ti dice che cosa fare, e quindi tu rimani in una specie di vuoto nel quale la decisione spetta a te. E poi esiste la libertà positiva, cioè la capacità effettiva di fare tante cose diverse. Io posso fare questo, posso fare quello, posso fare quell'altro, e quindi sono libero effettivamente di fare l'una o l'altra cosa. Allora, il liberismo e il neoliberismo contemporaneo sono fondati sulla libertà negativa. Se voi leggete autori come Isaiah Berlin, oppure si parlava di Polanyi prima, o von Hayek, eccetera, ci trovate questa idea, che quella è la vera libertà. La libertà è quando nessuno ti dice che cosa fare. Allora, io vi faccio un'ipotesi. Pensate di educare un bambino. Lo lasciate nel vuoto e gli dice: finite, fai quello che vuoi, senza insegnargli a fare niente. Allora, passano un po' di anni, questo bambino che cosa sarà effettivamente in grado di fare? Niente, perché nessuno gli ha insegnato niente. Oppure mettiamolo in un altro modo. Io, diciamo, so parlare una lingua. Ogni lingua ha i suoi limiti. Allora che cosa faccio per superare questi limiti? Smetto di imparare qualsiasi lingua? No, ne imparo due o tre. Così la seconda e la terza lingua illumineranno alcuni dei limiti che aveva la prima. Più io imparo, più aumenta la mia libertà, perché di fronte a una scelta, per esempio, di come dire una cosa, io posso dirla così, o posso dirla anche in quest'altro modo, quindi ho effettivamente la libertà in positivo di agire in questo e in quest'altro modo. Se invece non mi si insegna niente e mi si lascia nel vuoto, magari effettivamente nessuno mi dice che cosa fare, ma siccome io non so fare niente, continuerò a non fare niente. Ecco allora che l'io cartesiano, semplice, trasparente, originario, si trova dotato di una libertà in negativo, nella quale può fare quello che vuole. Allora io vado al supermercato, io non mangio i cereali, quindi posso usare questa cosa perché proprio non ho idea di cosa sto parlando. Vado in un supermercato americano e vedo un intero settore del supermercato pieno di centinaia di marchi di cereali diversi. Io posso scegliere quello che voglio, ma non ho idea di che cosa sto scegliendo, non ho nessuna informazione in proposito, non ho criteri. Allora a questo punto sceglierò probabilmente quello che sceglie un altro, e arriveremo a quello che dicevo prima, cioè la finta libertà del liberismo mi porta in realtà al conformismo, mi porta a scegliere e farmi piacere le cose, come diceva Mill, nella massa. Se io avessi strumenti miei, che magari nella loro combinazione sono leggermente diversi da quelli del vicino, affronterei questo stesso problema in un modo che è veramente mio, perché è depositato in una mia personale storia, in una mia personale peripezia, e allora lì dentro ci troverei davvero una mia libertà, quello che veramente io sono capace di fare. Ma questo evidentemente non interessa a molti, e il rimbecillimento generale attuato dai mezzi di comunicazione di massa per decenni sta arrivando ai suoi risultati. Adesso abbiamo effettivamente un pubblico al quale basta gridare alcune parole d'ordine e siamo sicuri che risponderà in modo appropriato. Allora, una alternativa possibile in questo disgraziatissimo ambiente che ho descritto al conformismo totale è un'altra forma di conformismo, cioè quello che io vedo molto presente, insomma, nei centri commerciali americani, cioè l'esotismo. Allora, l'altro viene incontrato come qualcosa di superficialmente diverso solo per confermarci sostanzialmente nelle nostre abitudini, nei nostri pregiudizi. Quindi io vado in un centro commerciale, tutti uno accanto all'altro, trovo un ristorante messicano, uno thailandese, uno italiano, eccetera. All'interno di questi non mi si offre di solito se non la caricatura di quelle stesse cose, questo lo posso dire perché i ristoranti italiani li vedo, che conforta e conferma i miei pregiudizi sugli italiani, sui thailandesi, su qualsiasi altra popolazione. E quindi, ancora una volta, l'altro non viene veramente incontrato, ma viene soltanto usato come scusa. Quando lo si incontra, allora, io quando ero ragazzo, io sono nato a Reggio Calabria, vedevo allora negli anni 50-60 in via Marina la sera tutti i ragazzi che passeggiavano da una parte e tutte le ragazze che passeggiavano dall'altra, e mi chiedevo già allora: ma questi quando si incontrano, diciamo la prima notte di nozze, che cosa mai avranno da dirsi? Non hanno mai sviluppato un linguaggio comune, non si sono mai neanche visti da vicino, hanno sempre soltanto parlato gli uomini delle donne, le donne degli uomini con degli altri uomini o delle altre donne. Ecco, allora, quando l'altro si incontra così, che cosa ne può venire fuori se non appunto l'incomprensione, la mancanza di dialogo e, nella peggiore delle ipotesi, la violenza? Ecco, allora, l'altro, che è negato in generale da questa società, perché appunto non si riconosce quanto l'altro ci abbia fatto quello che siamo, non si riconosce quanto d'altro c'è dentro di noi, quanto il fuori non sia altro che il nostro dentro, bene, l'altro che è negato così, noi lo incontreremo, se lo incontreremo, soltanto con sospetto, con incomprensione o con violenza. Non soltanto l'altro come genere, uomo o donna, ma l'altro come etnia, l'altro come religione, l'altro come qualsiasi altra cosa, perché manca appunto il dialogo e il confronto dall'inizio. Allora, quello che noi stiamo vivendo, secondo me, è il confronto fra queste due antropologie. Quella che io vi ho presentato come la mia preferita è ovviamente una posizione di assoluta minoranza, e quindi io qui, come sto facendo da un quarto di secolo, continuo a presentarla come un'opzione possibile, forse anche un'opzione desiderabile. Per riassumere in due parole, perché il mio tempo sta per scadere, io vi dico soltanto questo. Allora, secondo quello che vi ho detto, nell'antropologia cartesiana che domina, diciamo, il mondo del mercato contemporaneo, noi abbiamo tutti questi piccoli atomi staccati l'uno dall'altro, ognuno originato da se stesso, ognuno semplice, un atomo appunto per derivazione etimologica e privo di parti, indivisibile. Pensate alla parola individuo, vuol dire la stessa cosa, io sono un individuo, non ho parti, appunto, trasparente a se stesso, sa quel che vuole, sta lì, quindi il meglio che possiamo fare è contarci, perché non abbiamo altri strumenti di aggregazione del consenso. Dall'altra parte c'è invece un io che è letteralmente costituito di altro, in cui se io mi guardo dentro incontro soltanto degli altri, tutto quello che io sono altri me lo hanno dato, ogni mossa che io sto facendo in questo momento qualcuno me l'ha insegnata, ogni tono che la mia voce usa, ogni parola che uso l'ho imparata da qualcuno, è qualcosa che mi è sedimentata dentro, quindi l'altro sono io sono l'altro. E se capisco questo, guarderò all'altro non come a una fonte di sospetto, ma come a una risorsa infinita per continuare infinitamente nel processo di costruzione della mia soggettività. Grazie. In maniera comprensibile. Esatto, sì. Sì. E come diceva qualcuno un bel po' di anni fa, la facilità o la semplicità di elogio è una delle cose migliori di un'arte e più difficile da conseguire, quindi complimenti. Grazie. La parola a Mauro. Sì, grazie. Concordo pienamente, sono rimasto molto colpito dalla chiarezza, dalla pulizia. E poi anche dalla risonanza che sento nel modo di pensare mio e che condivido con tante altre persone. Siamo poi un gruppo di lavoro e ci stiamo occupando di formazione personale, inizialmente partendo dalla musicoterapia, poi andando nella pratica psicologica, capire chi siamo, come funzioniamo. E recentemente ci siamo resi conto sempre di più che capire chi siamo non lo possiamo capire se del mondo esterno non abbiamo una visione un po' più profonda e meno dipendente dai messaggi della televisione e dalla pubblicità. Questi ultimi anno e mezzo, due anni, mi sono occupato di economia, prima ne sono fatte tante altre cose, e devo dire che per me è stato un anno e mezzo di sofferenza, perché via via che cominciavo a occuparmene mi rendevo conto che ogni cosa che veniva detta alla televisione era come minimo molto parziale, spesso del tutto irrilevante rispetto a ciò che interessa a noi come persone comuni e molto spesso completamente falsa. Vi faccio un solo esempio. Credo che tutti abbiano sentito la parola pigs. Noi siamo i maiali d'Europa. No? Portogallo, Italia, Irlanda, no? Spagna, Portogallo, siamo Grecia. Siamo i maiali perché? Perché ci siamo comportati male. Voi vi siete comportati male. Non vi siete resi conto che avete abusato nella vostra vita in quanto avete abusato del sistema sanitario, del sistema pensionistico. Vi comportati proprio male, dovreste sentirvi in colpa, perché questo ha indebitato lo Stato italiano. E adesso quei poveri creditori del Nord, in conseguenza del vostro pessimo comportamento, quante volte siete andati all'ospedale e senza batter ciglio avete pagato solo un modesto ticket, relativamente modesto. Non vi siete mai posti il problema? Ma com'è possibile? No, vi siete comportati male. Ecco, questo è quello che ci stanno dicendo. I greci sono comportati malissimo. Perché le banche del nord generosamente gli hanno prestato dei soldi. Ma voi sapete quanto le banche sono generose e ci sono venute incontro? Alcuni di voi, ma credo che siano da curare, per la paranoia, perché alcuni di voi sospettano che le banche facciano questo per guadagnare. Non è così. Si preoccupano che l'inflazione non cresca. Non sono preoccupate per loro, per voi, perché l'inflazione è una tassa tremenda. Sono preoccupati perché vi siete comportati male. Bene, arriviamo. Vi siete comportati male. Bene, il liberalismo, prima del neoliberismo, prevedeva che se un creditore, noi ci incontriamo, no? Tu mi chiedi 500.000 euro, provate a immaginare che io sono una banca, lui mi chiede 500.000 euro, guardo un po', dico che camicia, ma sì, glieli do, vai. Dopo un po' mi rendo conto che noi non le restituisce. Perché? Perché non c'ha un lavoro, non c'ha manco una casa, in realtà vive di espedienti. Ma in quel caso, sapete cosa pensava il sistema liberale? Avrebbe detto, bene, sei stato un prestatore incauto, ce li rimetti. Siete mai andati a chiedere un mutuo? La banca ve lo dà così? Oppure fa qualche piccola indagine? Avete guardato? Quindi di solito una banca si accorge se voi siete debitori solvibili oppure no. E allora come mai le banche hanno continuato a prestare a aziende, a persone e a governi che era già sicuro che non avrebbero potuto restituire? Lo siete mai chiesto? Perché? E lì il trucco è semplice. Perché erano sicuri che comunque i loro soldi li avrebbero avuti dietro. Quindi se io ti presto 500.000 euro, no? E tu non me li ridai, ma so che non ce li rimetto, perché se ci rimetti i tuoi soldi e poi i tuoi fallisco, ma non posso fallire perché sono troppo grosso e quindi la nostra, l'economia del mio paese potrebbe andare storto, potrebbe avere delle conseguenze, allora sai cosa fa lo Stato? Interviene e al posto tuo mi paga lui. Cioè siete voi che mi pagate, con le vostre tasse. Quindi voi sapete che sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno sborsato cifre da capogiro per salvare le banche. Ma si parla di migliaia di miliardi di euro e di dollari. Sapete quanto ci voleva per salvare la Grecia quando era in difficoltà? Il debito greco cosa serviva? 80 miliardi. 80 miliardi la Grecia sarebbe andata a posto. Sapete quanto l'Europa, la Germania ha speso per le banche? 4.200 miliardi, cioè 50 volte di più di quello che serviva per salvare la Grecia. Queste cose le avete sentite alla televisione. No. Allora, quando poi si parla della corruzione della Grecia, i nord sono persone, si sa, per niente corrotte, sono serie, mentre invece il sud sono tutti. Ma lo sapete che la ThyssenKrupp e la Siemens sono tedesche, che sono andate a corrompere i funzionari greci, sono tra le organizzazioni più corrotte del mondo? Ma l'avete mai sentito? Quindi, gli onestissimi e sussiegosi banchieri del nord hanno prestato soldi incautamente, si chiama anche moral hazard, azzardo, perché sapevano che gli sarebbero ritornati indietro. Questo è quello che è accaduto. Poi, siccome i vari stati europei hanno dovuto pagare per rimettere i conti a posto delle banche private, non pubbliche, private, è chiaro che il debito pubblico è salito, in media in Europa è salito del 20%. Se sale il debito pubblico del 20%, è chiaro che la sanità, la scuola, le spese sociali dovranno diminuire perché bisogna restituire questi soldi. Due anni dopo questi salvataggi, che cosa ci è stato detto come popolo italiano? Appunto quello che vi ho detto prima, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Ora, io mi chiedo, ma questi giornalisti che non dicono il vero, ma che coscienza hanno? Io lo capisco che devono mangiare, lo capisco. Ma perché non lo dicono? Lo dice qualcuno di Striscio in modo che non va a fare. Ma perché Repubblica non titola grosso così questa cosa? O l'Espresso? Perché? Sapete perché? Perché questo modello che prevede che anche il creditore incauto sia tutelato, cioè colui che specula sia tutelato, questo modello che poi è uno dei nuclei del neoliberismo, perché il neoliberismo, detto in due parole, è una serie di teorie che studiate con un po' di serietà appaiono nella loro assoluta vacuità, tutte sconfessate. Però questo modello è servito per quello che ormai è un termine fuori moda, ma che alcuni stanno cominciando a tirar fuori, è servito per la lotta di classe. Sapete, negli anni 70 c'era stato un periodo di stagflazione. Stagflazione vuol dire che aumentava l'inflazione e però l'economia stagnava. Era un periodo difficile perché la domanda interna di beni, che aveva fatto crescere in modo molto forte l'economia dei nostri paesi, cominciava a ristagnare perché non c'era più la ricostruzione da fare dopo la guerra, cominciavano molti beni di consumo, erano già stati, il mercato era già stato invaso, non c'erano delle grosse novità. Guardate, in economia quello che fa aumentare la domanda sono fondamentalmente le guerre, funzionano sempre, le guerre sono ottime, cioè, per un economista la guerra è fantastica. Guardate un po' cosa succede in tempo di guerra, la Germania aveva difficoltà enormi, che mette a produrre militarmente e quindi l'industria militare produce e così. L'altra cosa che funziona molto per l'economia sono le invenzioni. Ora, le invenzioni grosse erano state fatte, noi eravamo in attesa delle nuove invenzioni che sono venute dopo e quindi c'era un ristagno. Allora lì c'erano due possibili vie. Uno era continuare sulla via percorsa dopo la guerra, che era una via di economia mista, in cui lo Stato interveniva nell'economia emettendo moneta, sovvenzionando determinate linee industriali, quindi faceva una politica industriale per generare la domanda. Si chiama keynesiana questa via di politica, no? Keynes. Politiche keynesiane sono quelle in cui lo Stato spende, ma spendendo mette in moto l'economia e quindi poi lo Stato riprende indietro quello che ha speso attraverso le tasse per il cosiddetto moltiplicatore keynesiano, nel senso che la moneta esce, viene spesa da questo, su questo, su questo, alla fine tassando i vari passaggi lo Stato si riprende indietro quasi tutto. Questo tipo di economia ha funzionato per quasi 30 anni e ha portato l'economia degli europei e americani a fare questo modello qua, così. Ma come ci indica bene Alberto Bagnai, che è uno dei economisti italiani che credo si sia speso di più in questi anni per far capire la crisi in cui ci troviamo, ha scritto libri fantastici, non facilissimi, ma... E lui ci dice, guardate che fino agli anni 70... c'era un incremento della produttività, così. Produttività vuol dire la produttività per ora di lavoro, cioè, per capirci, se io vi do una pala a ciascuno, vi do da lavorare un campo, in un'ora produrrete una certa quantità di lavoro. Ma se vi do a ciascuno un caterpillar, farete molto più lavoro. Naturalmente per aumentare la produttività ci vuole un investimento, ci vogliono i mezzi per investire. Bene. La produttività è cresciuta in quegli anni lì così, ma guardate, cresceva anche il costo del lavoro, cioè i salari, gli stipendi crescevano insieme alla produttività. Bene, dagli anni 70 più o meno, se guardate le due linee, succede che la produttività continua a fare così, e sapete i salari cosa fanno? Così. E i salari reali, mentre sono cresciuti del 65% in 10 anni dal 70, negli anni intorno agli anni 70, in 30 anni fino ad oggi sono cresciuti del 10%. Cioè per i lavoratori c'è stato un impoverimento incredibile in questi 30 anni. C'è chi dice che è l'impoverimento più grosso che mai la storia dell'umanità abbia, si sia mai verificato. Si dice d'altra parte che non ci sia mai stata una concentrazione di ricchezza così forte nelle mani di pochi. Quindi, detto in due parole per andare proprio al sodo, il neoliberismo è stato il modo in cui le élite, che stavano un po' perdendo terreno perché le loro ricchezze negli anni 70 erano dimezzate, non solo, ma anche gli interessi cominciavano a diminuire sul capitale. Ma erano ricchi, c'era gente che aveva miliardi di dollari. Ora, le élite vedevano che questa loro ricchezza stava diminuendo, mentre stava crescendo quella dei lavoratori. Si sono molto preoccupati. Vedevano che i movimenti di sinistra, cioè i movimenti che vogliono una democrazia economica, cioè che non ci siano troppe differenze di ricchezza, non ci siano troppe differenze di reddito. Bene, c'è stata, pare, quella che documentata, anche in modo esplicito, ci sono dei documenti che potete vedere su internet, andate a casa, prendete Lewis Powell, andate a vedere il memorandum del 1971, ve ne cito uno tra tanti, vedete, trovate 11 pagine di memorandum in cui lui dice, si rivolge alla Camera di Commercio degli Stati Uniti, vedete, mai nella nostra storia americana il business è stato così poco sostenuto dalla politica. La classe del business ha avuto una perdita di peso politico enorme. Nelle università si stavano sviluppando movimenti di sinistra. Le aziende non erano più viste come il cuore centrale del paese. Si cominciava a pensare all'importanza dei diritti umani, di una redistribuzione della ricchezza. Bene, quel memorandum è impressionante perché in 11 pagine viene descritto quello che accadrà nei successivi 30 anni. Lui dice, adesso noi dobbiamo creare una trasformazione della cultura. Bisogna che noi occupiamo, con i modelli neoliberisti che erano già predisposti, c'erano già pronti, quelli di Hayek, von Hayek e di Friedman, dobbiamo occupare tutte le università più importanti in modo che venga insegnato il neoliberismo. Detta in due parole, neoliberismo vuole questo, il trasferimento dalla ricchezza dal basso verso l'alto. Faccio un esempio, le tassazioni a chi si abbassano? Ai ricchi, a chi si alzano? Ai poveri. Che cosa si fa per togliere soldi anche a chi ha meno soldi? Si taglia lo Stato sociale. Quindi il modello neoliberista funziona così. Drena, riduce i salari, promuove i licenziamenti, taglia le spese sociali, la sanità, la scuola. Ci sono dei filmati su internet che se li andate a vedere fanno accaponare la pelle. C'è un filmato di Barnard, che è un giornalista che ha lavorato per Report, cioè quindi su Report, in cui si trova in un paese dell'Africa, mi sfugge in questo momento, Tanzania, scusa. E lui va con la sua troupe e va a intervistare il medico di un ospedale del paese. Il medico lo accoglie e poi gli fa vedere che c'è una stanza grande come questa con dei bambini. E la troupe, il Barnard in particolare, chiede, ma che cos'hanno questi bambini per cui stanno sotto queste coperte? Dice, e lui gli dice, questa malattia, quest'altro, quest'altro. Dice, ma sono curabili? Sì, certo che sono curabili, ma lo fate? No. Come no? Perché non lo fate? Non abbiamo i soldi. Ma da quando non avete i soldi? Da quando il Fondo Monetario Internazionale ci ha costretto alle riforme strutturali. Taglio della sanità, taglio dell'istruzione. C'è un bambino che sta per morire. E Barnard dice, ma questo bambino di cosa avrebbe bisogno? Della medicina tal dei tali. Quanto costa sta medicina? Allora era 10 anni, più di 10 anni fa. 28.000 lire. Eccole. Un mese dopo, quel medico gli telefona e dice, grazie, questo bambino è vivo, adesso sta bene. 28.000 lire che non vengono date, oggi sarebbero 25 euro, non vengono date, perché? Perché bisogna restituire i soldi ai creditori incauti. Ma vi rendete conto di cosa parliamo? Ecco, quando ho cominciato a entrare in questo mondo, devo dire che ho cominciato a provare un travaglio interiore veramente forte. Ero in montagna, io amo la montagna, e mi dicevo, ma io come faccio ad andare lassù? Adesso devo capire queste cose, perché mi sentivo responsabile. Io me le devo dire a tutti, perché poi parlavo con i miei amici, che gente che legge i giornali fa, non ne sanno niente. Ho fatto una decina di conferenze come questa ormai, la maggioranza delle persone non hanno la minima idea, sì, un sospetto ce l'hanno, ma è vago. Ecco, quello che è importante a mio avviso oggi è che invece ciascuno di voi abbia consapevolezza piena del mondo in cui ci troviamo e di come il sistema planetario, e in particolare quello europeo, ha generato una situazione che è di ingiustizia clamorosa. Sapete che in Grecia i bambini soffrono la fame, gli anziani non hanno da curarsi. E questo, il rischio dell'Italia finire così, c'è, non è che non c'è. Ecco. Voi sapete che il fondo l'Italia ha versato un fondo salva stati. Una parte di questo fondo è andato in Spagna per aiutare la Spagna. È stato aiutato il popolo spagnolo? No. Sono state aiutate le banche spagnole. Ah, bene. E perché proprio le banche spagnole? Cosa ce ne importa? Beh, poverine, le banche spagnole soffrivano di un debito nei confronti delle banche tedesche. Quindi noi abbiamo pagato le banche greche perché potessero restituire i loro soldi alla Germania, la quale ci fa lezione di morale. Allora queste cose sono, attenzione, non sto parlando dei tedeschi. Anche in Italia c'è una classe capitalistica, neocapitalistica, che funziona così. La nostra grossa industria è interessata al neocapitalismo perché può utilizzare manodopera a prezzo bassissimo. Le delocalizzazioni, le imprese, sapete che è stata liberalizzata completamente il movimento di capitali. Sapete come ve l'hanno passato? Ma dicendo, ma ti piace andare in Cambogia? Ti piace andare? È bello, no, girare, conoscersi tutti, ci conosciamo, facciamo... È bellissimo, no? Conoscere altri paesi, il commercio al posto della guerra. Bene. Queste imprese sono andate a delocalizzare anche gli iPhone, l'Apple, che è un'azienda. Dove li va a fare gli iPhone? Credete che li faccia a Silicon Valley? Maggioranza dei suoi componenti li fa in località che si chiamano località di esportazione, libere di esportazione. Sono dei luoghi in cui le leggi prevedono situazioni particolarmente favorevoli ai capitali stranieri. Vuol dire che se io ho un'industria, per esempio sono la Fiat, non voglio pagare un operaio quello che devo pagare, lo vado a produrre in un paese dove il costo del lavoro è un ventesimo. Ma non solo, ma che diritto di sciopero non c'è. No, dunque, quei luoghi sono costruiti in questo modo. Si sono visti quali sono i diritti dei lavoratori nelle diverse parti del mondo, no? Si è visto. Si è fatto esattamente il contrario, si sono tolti tutti, peggiorandoli. Quindi in quei luoghi di lavoro, spesso, l'abuso sessuale sul lavoro, gli abusi di tutti i tipi sono normali. Sono dei lager, sono schiavitù. E 10 anni fa ce n'erano già 3.000 di questi luoghi, dove le nostre aziende vanno, portano, anziché tolgono il lavoro da qua, hanno deindustrializzato l'America, deindustrializzato l'Italia, pensate, il tuo settore tessile non c'è più. Ecco. Allora, questo è stato venduto come la possibilità di arricchirsi per tutti, perché vedete, se il neoliberismo fosse stato chiaro, avesse detto, guardate, il nostro progetto, voi avete un reddito così... Bene, il nostro progetto, sapete qual è? È quello di farlo così. Mentre chi ce l'aveva così, lo facciamo 100 volte. I manager, 30-40 anni fa, venivano pagati al massimo 40 volte, no? Il costo dello stipendio medio. Adesso arrivano a 1.000 volte. Quindi c'è stato un incremento di ricchezza, quindi un accumulo di ricchezza. Adesso arriva il punto. Quando c'è un accumulo di ricchezza, di potere, di denaro, non ci vuole molto a capire che quello si trasforma in potere politico. Ma si sa da sempre. Infatti, che cosa è successo? Che poi, per esempio in America, è noto che le lobby, ogni parlamentare, mi sembra, ogni 125 lobbisti, cosa ci vanno a fare i lobbisti? Perché spendono $1 miliardo all'anno per mantenere un esercito di lobbisti? Per poter ottenere le leggi che sono favorevoli alle imprese. Non vi dico, vi fermo qui perché il discorso sarebbe grande, mi interesserebbe invece riprendere il tema che hai trattato tu così, in modo così affascinante che nessun filosofo mai sentito trattare con questa chiarezza. E io parto da lì perché questa è la base. Cioè, ecco. Quindi mi fermo, poi vi indico semmai una fonte, noi stiamo costruendo un sito, che siamo ancora lì, ma... E proprio apposta per dare la possibilità a persone come voi di andarci dentro e orientarsi. C'è un po' fatica perché non mi è stato facile coinvolgere le persone, i miei collaboratori in questa ricerca, si rifiutavano tutti. Però adesso cominciano, stanno cominciando. Va bene, questo poi vi do l'indicazione. Invece torno alle queste stimoli che mi sono arrivati. Ecco, beh, intanto posso dire che io concordo su tutto. Cioè, ecco, e sembra sbalorditivo che ancora qualcuno oggi possa pensare un io semplice a un io originario e a un io trasparente. Ok, va bene, ci ha pensato la psicanalisi per capire che è tutto il contrario, va bene. C'è più di un secolo così. Ora, se prendiamo Cartesio da un punto di vista psicologico, c'è chi gli ha fatto la diagnosi di personalità Aspergen. La personalità Aspergen vuol dire una personalità che funziona benissimo nel mondo da lavoro, ma guai a cercare di avere rapporto con lui. Non gli puoi chiedere niente, perché lui è interessato solo alle macchine. Cartesio era anche precettore, come si dice, presso la principessa di Svezia, mi sembra. Un giorno la principessa di Svezia lo chiama e dice: senta, maestro, ma nonostante i suoi insegnamenti, io mi rendo conto che ho ancora delle sensazioni che mi guidano nella vita, non è solo il mio io. L'altro lo guarda e gli dice: vedo, eccellenza, che nonostante il suo rango, lei continua a ragionare, e nonostante i miei insegnamenti, continua a ragionare come una persona del popolo. Ah, tremendo. Capisci? Dava ancora credito alle sensazioni del corpo. Ma quando l'io si sa che è originario, semplice e del tutto trasparente. Io so che cosa voglio, lo so benissimo. Bene, è chiaro che il neoliberismo è molto astuto, perché? Ma semplicemente perché hai soldi. Lo devo essere anch'io, se avessi tutti i soldi che avessero loro, diventerei sveglio, farei ricerche in poco tempo, false anche. Io non cercherei di farle vere, ma loro le hanno fatte false. Hanno avuto a disposizione tanti di quei soldi che hanno potuto fare tutto quello che volevano, hanno messo su degli istituti di ricerca, i cosiddetti think tanks, cioè tanche gruppi di pensiero che servivano a mantenere diffondere queste idee dappertutto. Pensate che Friedman, interessante la figura di Friedman. Friedman è uno dei fondatori del neoliberismo. Lui arriva a Chicago, all'Università di Chicago, e si rende conto che i professori che c'erano davanti a lui erano molto svegli, erano avanti nella carriera, che non poteva competere con loro, non ce l'avrebbe fatta. Ha avuto un colpo di genio. Ha detto: aspetta un attimo, se io, anziché continuare a fare l'economia come adesso, faccio in modo che l'economia sia piena di matematica, piena, la zeppo fino, siccome la matematica, politica, semantica, vuol dire scienza vera, allora vuol dire che l'economia, quella che faccio io, se la riempio di matematica, vuol dire che è la vera scienza, cioè accreditata, valida, sicura. Prima le scienze economiche erano quasi delle scienze sociali, sì, c'era la matematica, ma no, con Friedman comincia a esserci nella credenza che la scienza economica abbia la previsione di una scienza dura. Ora, voi sapete che non ne azzeccano una, ecco. Però sono riusciti a farlo credere. E allora Friedman, all'università, è diventato un punto di riferimento non solo per l'Università di Chicago, ma per il mondo. Molti studenti da tutte le parti del mondo andavano a studiare da lui e poi tornavano nei loro paesi, per cui l'insegnamento del neoliberismo è arrivato in tutte le nostre università. È questo che si insegna agli studenti. Quando io vado a parlare con uno studente che ha fatto economia e commercio, certe cose non è possibile parlare con lui. Non è possibile, perché è talmente inzeppato di certe idee e dei preconcetti che è come andare a parlare con un freudiano doc di cognitivismo, non potete parlargliene. Lui è convinto di aver ragione, basta. Ecco. Dunque, vi stavo dicendo che il neoliberismo è stata una mossa delle elite per riconquistare. e riguadagnare il terreno che avevano perduto e che stavano perdendo. Questo è ciò che c'è da capire. Poi i libri ve li indico dopo, li andate a vedere sul sito, sono tutti documentatissimi, sono docenti universitari di primo livello che vi dicono queste cose, peccato che sono in pochi a dire questo. Adesso apro una parentesi invece più su un terreno di cui mi sono occupato un po' di più nella vita, in realtà fino a una certa età, dopo meno. Dunque, quanti di voi conoscono l'articolo 1 della Costituzione? Immagino tutti. L'Italia è? Democratica, fondata sul governo. Ok, vi sembra vero? Ecco. Cioè, cosa volevano dire i costituenti fondata sul lavoro? Beh, è ovvio che una repubblica democratica deve tener conto della maggioranza. Di solito, ci stenterete a crederlo, ma quelli che vanno a lavorare sono di più di quelli che hanno i soldi per non andarci. Voi, quanti di voi non devono andare a lavorare qui, perché sono pieni di soldi? Quanti ce n'è? Ma manco uno. Ma che posto è questo? Ma siete accidenti. Bene, allora voi che avete il vizio di andare a lavorare, perché? Perché non siete stati sufficientemente virtuosi da mettere da parte i soldi. È questa la ragione. Neoliberismo ti dice, se tu non hai un capitale, è perché l'altro ce l'ha, perché l'altro si è comportato bene in modo sveglio, tu invece non hai fatto le mosse che dovevi fare. Quindi la colpa è tua se non sei ricco. Punto. Ok. Fatta questa premessa, allora il neoliberismo serve alla classe transnazionale capitalistica. Se capite questo, capirete perché sono state fatte delle leggi demenziali, tipo quella della liberalizzazione dei capitali, ma è una follia, perché consente ai paesi più ricchi di andare a colonizzare economicamente i paesi più poveri. Ora, se quello è lo scopo, bene, quelle leggi sono perfette. Non sto dicendo che sono sbagliate. Per i ricchi sono leggi tutte giustissime. Ora, se uno difende la classe dei ricchi, quelle leggi vanno bene così. Se invece pensa che la maggioranza della popolazione ha diritto di vivere una vita decente, allora quelle leggi sono sbagliate. Purtroppo queste leggi sono state approvate anche dal nostro Parlamento, perché non possono fare le leggi senza approvazione dei parlamenti. Com'è possibile questo? Allora noi dove eravamo mentre approvavano queste leggi? Dove eravamo mentre la Costituzione ci cambiava sotto gli occhi in un modo che nemmeno il legislatore italiano poteva fare? Cioè, pensate che secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, nemmeno il Parlamento avrebbe potuto cambiare l'articolo 1, dicendo l'Italia è una repubblica democratica favorevole allo sviluppo del capitale. Non lo può fare nemmeno il Parlamento, perché si tratta di una tale deformazione che quello si chiama cambio, non cambio di Costituzione, cambio di Stato, è un altro Stato. Allora, vi sto parlando dell'articolo 1, ma posso parlare dell'articolo 3, dell'articolo 4, articoli sull'iniziativa economica. Tutte le parti riguardanti il rapporto capitale-lavoro della Costituzione sono state trasformate in modo radicale sotto i nostri occhi, e se noi non l'abbiamo visto, forse c'è una responsabilità anche di chi ci doveva informare, anche nostra che non ci siamo attaccati. Perché i giornali, per esempio, se voi l'unità del 11 o 12 novembre 2011, titola grosso, Liberazione. E dice, ah, bene. E se in effetti Berlusconi ha ceduto il governo, se n'è andato. Bene, Liberazione. Chi ci è arrivato? Ma lo sapete chi è Monti? Monti è un uomo delle banche. È consulente speciale della Goldman Sachs, una delle banche più criminali del mondo. Noi non lo sapevamo, io non lo sapevo. Io stesso mi sono detto, ma dove ho vissuto? Quindi ho avuto un senso di inadeguatezza profonda. Allora, la classe di giornalisti non può fare certe cose perché perdono il posto, però mi chiedo, ma i professori universitari invece il posto non lo perdono? Come mai? Non hanno fatto quello che un'università pagata dalle tasse vostre dovrebbe fare? Cioè, perché i costituzionalisti non hanno fatto una dichiarazione congiunta che la nostra Costituzione è stata completamente cambiata in modo non, diciamo, formale? Gli articoli sono rimasti gli stessi, ma completamente svuotati dalle leggi internazionali, completamente. Ecco, quindi noi abbiamo assistito a un colpo di Stato in cui la nostra stampa non ci ha avvisato. Due, l'università a cui studente dovrebbe andare, no, per apprendere, no, qualcosa, non ci ha avvisato. Che devo pensare io di queste istituzioni? Allora lì il tema, ve lo lascio lì perché il tempo adesso sto per finire, volevo invece tornare sul tema dell'io, perché questo invece è il tema che noi come gruppo di studio ci interessa di più. Prendo un attimo fiato perché devo cambiare proprio il registro e vado ad un altro piano. Ok, proprio andare a cercare l'altro settore. Ok. Bene, tutti noi usiamo la parola io. Avete mai sentito una persona dire un altro io ti amo? Vi è capitato? E magari sposare questa persona dicendo io sarò fedele tutta la vita. E poi, 6 mesi dopo, pensa a tutt'altro. Una volta incontro un mio amico, pianista, lo incontro per strada e dice, come stai? Ah, benissimo, sai la prossima settimana mi sposo. Ah, sono contento per te. Fa una piccola pausa. Gli occhi gli vanno giù e dice sottovoce, che ho sentito proprio per miracolo, veramente non sono per niente convinto. E poi dice, no, sono felicissimo, guarda, sono contento. Un anno dopo, il suo matrimonio è finito in un disastro. Dunque, dentro di lui c'era un io che voleva sposarsi e un altro no. Avete mai visto uno studente che gli dice che vuole studiare e poi fa tutt'altro? Avete mai sentito qualcuno che vuole una cosa e fa l'opposto? Ma persino San Paolo, dimmi no. Dice, so qual è il bene, ma dimmi tu. So qual è il bene, ma faccio il male. È San Paolo, studia un po' di psicologia e lo capirai perché, santo Dio, perché non sei uno. Diventare uno è un problema, è un lavoro. Ecco, su questo vorrei per terminare. Noi crediamo, vedete, sapete qual è la differenza fondamentale tra noi, i gatti, i cani, ma anche cioè, tutti gli altri esseri viventi tranne noi? Bene, tutti gli esseri viventi tranne noi diventano chi sono. Cioè raggiungono il pieno sviluppo, tranne sfighe, pazzesche, qualunque gatto diventa un gatto adulto. Ma gli esseri umani secondo voi è così? Ecco, chi abbia un minimo, ma un minimo, di conoscenza di clinica familiare, si accorge che spesso i genitori fanno parte della schiera dei bambini, non sono più grandi dei bambini. Il problema è che quando i loro bambini crescono un pochino più grandi di loro, cosa fanno? Infatti i bambini devono prendersi cura dei genitori. In quei casi le cose non vanno molto bene per le famiglie. Cioè non basta pesare 90 kg e avere 40 anni per essere adulti, Uno a 40 anni può essere ancora un bambino di 2 anni, non del tutto, ma avere un accesso così favorevole al bambino di 2 anni, o di 3 o di 4. Bene, dentro di noi, la descrizione che ha fatto Hermann è fantastica, che d'altra parte, no, richiama anche Sartre quando dice noi siamo fatti come gli altri ci hanno fatto, no? Proprio. Allora il problema è, e lì il tema della democrazia è interessantissimo, poi ti faccio una domanda su questo. Come possiamo fare, visto che non siamo uno al nostro interno, come si fa un governo democratico? Allora, che vado, vai a intervistare la parte di 2 anni, cosa vuole? Quella di 3, cosa vuole? Quella di 5? Allora, se io sono una famiglia, come padre e famiglia, e voglio cambiare casa, posso andare magari dai figli un po' più grandi e sentire, ma vado anche da quello che ha 6 mesi? Da quello che hanno a 2 anni, magari sì, però non ne tengo conto come posso capire, che mi può posso capire cosa gli succede o non gli succede. Ora noi, a differenza di una democrazia di adulti al nostro interno, siamo fatti di parti, alcune delle quali sono rimaste molto piccole, che non avrebbero diritto di voto. 2, alcune di queste parti sono antisistema, cioè non sono per affatto interessate al nostro benessere, anzi sono volte di distruggerci. Faccio un esempio. Se io per adeguarmi a quello che vuole un'altra persona, comincio a reprimere molto le mie pulsioni, da una parte io mi adeguo, ma dall'altra il mio centro vitale non si adegua affatto. E sai con chi se la prende? O se la prende con l'altro, con degli equivalenti aggressivi, ogni tanto gli tiro fuori delle battute che non si aspetta, oppure se cammino in un bosco gentilmente gli faccio arrivare un ramo in un occhio, cioè quelle cose cattivine, no? vado sulla sua macchina nuova con le chiavi, non mi rendo conto, ma gliel'ho rovinata. Gli equivalenti aggressivi, no? Che fanno sempre. Io mi sottometto, non faccio niente di male, no? Però gliene faccio ogni tanto. Ma la stessa persona, sai cosa fa? La stessa parte aggressiva dentro di noi, sai cosa fa? Se la prende con me. E se la può prendere tanto, che vuole la mia morte, mi vuol far malare, perché dice, tu non sei degno di governare, vai a quel paese. Quindi dentro di me non solo dei cittadini che votano, ma posso avere dei cittadini che sono dei terroristi, cioè cittadini, gente che mi può provocare addirittura le malattie per queste cose, anche fisiche oltre che mentali. Allora questo tema è un tema che è troppo affascinante, perché se l'affrontiamo così, la psicologia è molto semplice. Se la studiate come si studia tradizionalmente, ho fatto 36 esami di psicologia, alla fine non sapevo niente, non ho capito nulla. Ci ho messo anni per poter frequentare altre branche di lavoro. Ora, la psicologia adesso riusciamo, come dire, a farla passare in modo che sia pratica. Cioè, cosa serve studiare psicologia? Che se impari qualcosa di psicologia ti deve essere utile nella vita. Devi poter cambiare qualcosa, se no cosa impari a fare? Un po' anche la filosofia doveva essere così, la prima filosofia, pensa Epicuro, no? Cosa diceva? La filosofia serve a trovare una via verso la felicità, non serve a creare grandi sistemi, secondo per esempio questa visione. Bene, allora, oggi quello che normalmente si insegna nelle università è utile, certamente, ma non per lo scopo che vi dicevo prima. L'università ha generato una serie di discipline talmente specialistiche, talmente, di cui Lukács chiama questo modo di procedere, l'idiotismo atomistico, no? Lo chiama. Quindi io imparo il tutto su una porzione irrilevante di realtà, ma in questo modo io non sono in grado di orientarmi nella vita. Allora adesso vi dico un'ultima cosa, che è questa. La metafora politica per me è molto chiarificatrice, e allora vi chiedo, ma dentro un paese come il nostro, ma in altri paesi, ci sono diversi livelli di leggi. C'è la Costituzione, leggi costituzionali, poi ci sono le legislazione primaria, poi ci sono i regolamenti, poi ci sono i decreti, quindi sono diversi livelli. Cosa succede? Che i livelli più alti devono essere rispettati dai livelli più bassi. Quindi una legge che contrasta con la Costituzione è invalida, produce effetti fino a che non viene dichiarata incostituzionale, però è invalida. È lo stesso regolamento che non rispetta la Costituzione, una legge, così via. Bene. Quindi esistono dei livelli di forza di legge. Ok? Bene. Quando parliamo di il tema poi che stiamo trattando senza dire la parola è la congruenza, la coerenza, l'autenticità. Che cosa vuol dire autenticità? Che quando io ti dico una cosa, io sono la cosa che ti dico, che non ho fratture. Non è che poi vado qui e ho un congresso di un altro partito che dopo di notte mi fa sognare male, perché no. Io ho lavorato tanto politicamente, in modo politico al mio interno, come io governo, ho lavorato tanto da conoscere le mie varie parti, alcune le ho dovute mandare a scuola perché dovevano crescere, altre le ho dovute curare in qualche modo, prendermene cura, ho dovuto fargli da mamma, altre le ho fatte crescere fino a che queste parti sono come cittadini di uno Stato democratico. Allora sì, faccio un'assemblea di parti e queste mi dicono sì, su questo, e quindi alla fine poi prendo una decisione che è quella. Ma quello è un lavoro, non è qualcosa a cui arriviamo naturalmente. Un gatto ci arriva da solo, nel senso che non deve fare questo lavoro. È guidato dagli istinti, beato lui. Noi invece non abbiamo istinti, noi abbiamo da fare un lavoro politico. Questo lavoro politico ci fa passare da uno stadio di incoerenza, pensiamo così, ma anche così, ma anche così, ma anche così, via via verso uno stato di maggiore coerenza. Quando siamo in uno stato di coerenza, noi siamo la nostra parola. Quindi diventiamo addirittura affidabili, che per un essere umano è qualcosa di sconvolgente. Diventiamo quindi anche responsabili, e anche responsabili socialmente. Questo è un tema. Allora, vorrei farvi una domanda. Ma secondo voi il livello costituzionale, cioè i principi fondativi di un paese, l'Italia, li vai a vedere nella Costituzione? Da chi è stata fatta la Costituzione? È stata fatta da un'elite di intellettuali validissimi, non è stata fatta dal popolo, tutto il popolo italiano. Il popolo italiano poi ha votato, però è stata votata l'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è stata formata di uomini politici, intellettuali di altissimo livello che hanno costruito l'Italia del futuro nella Costituzione. È una delle Costituzioni più avanzate del mondo, che è stata presa anche a modello dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi, bene, al nostro interno c'è qualcosa che è simile alla Costituzione? Questa è la domanda. Bene, la psicologia questa cosa non la prende neanche in considerazione. Ovvio che la psicologia ti parla di conflitto, questo è ovvio. Ma non ti sa dire che esiste, si può costruire un luogo dove alla fine si genera una certa coerenza. Cioè in cui tutto il popolo italiano, si fa per dire, si riconosce nell'articolo 3. Tutti sono uguali di fronte alla legge, non è che su quello ci discutiamo ancora, no? Okay. La Costituzione ha costituzionalizzato l'etica umanistica. Che cos'è l'etica umanistica? L'etica al servizio dell'uomo, di tutti gli uomini. E cos'è l'opposto? L'etica coercitiva, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. La nostra Costituzione ritiene incompatibile col suo assetto filosofico la prevaricazione dell'uomo sull'uomo, quindi del capitale sul lavoro, per esempio. Allora, dentro di noi esiste qualcosa che può assomigliare a una Costituzione? Ecco, allora, nell'esperienza clinica che abbiamo noi, direi di sì. Nel senso che gli possiamo dare il nome che vogliamo, possiamo chiamarlo A, B, C. C'è un punto di tensione verso il livello più alto di comprensione. Immaginate che sia un cursore. Qua io sono completamente scisso in parti. Via via qui un pochino più di coerenza. Qui un po' più di coerenza. Qui. Qui ho un livello di coerenza piuttosto buono. Per cui che cosa succede lì? Il tema è enorme. Quando sono a quel livello lì, ho due occhi aperti, non solo l'occhio dell'intelletto, e questo arriva al tema che del teta, ma anche l'occhio del cuore. Sono insieme l'intelligenza del cuore e l'intelletto, che sono quelli che Margherita Porete chiama i due occhi dell'anima. Allora l'anima è un tema difficile da trattare, ma insomma la psicologia, secondo alcuni, oggi è una psicologia senza anima. Cioè non considera che l'essere umano non è solo quel acervo di conflitti che quindi è fatto di legno storto. Su questa base si basa il neoliberismo, che noi siamo fatti di ingordigia, di avidità e di interessi personali. Questo si chiama homo economicus. Allora, pensare che l'uomo sia solo questo è un disastro. Ora, il neoliberismo ha favorito la diffusione di questa personalità, potremmo chiamarla anche narcisistica, neoliberista, cioè ognuno per sé. Margaret Thatcher dice, non esiste la società, esistono soltanto gli individui in competizione l'uno con l'altro. Ma capite che stortura che c'è dietro? Quindi non è un problema oggi solo di economia, è un pensiero di che tipo di umanità vogliamo essere. Se vogliamo essere coloro che fanno affari anche nel matrimonio, perché tra l'altro il neoliberismo è una teoria del tutto anche psicologica, sentite questo, dice: i genitori investono in sensi di colpa sui figli in modo che i figli, quando saranno grandi, si prenderanno cura di loro, perché l'unica cosa che ci guida nella vita è il nostro interesse privato. Questo è il neoliberismo, questa è la base del neoliberismo sulla quale è bene che voi siate informati. Grazie. Credo che questo sia il tema centrale, per cui io ho qualche interesse ancora a parlare di queste cose, perché se no, perché altrimenti possiamo anche distinguere in dettagli infinitesimali. Ma alla fine la domanda è: che cosa possiamo fare noi? Ritornare alla prassi trasformativa. Ecco. Quindi che cosa puoi fare tu quando torni a casa? Che sia nuovo. Bene, credo che la cosa più importante da fare sia quella di cominciare a conoscersi meglio dentro, in modo da generare relazioni intorno a sé sempre più armoniche, in cui io capisco quali sono i tuoi bisogni, e quindi quando tu ti comporti in un certo modo, lo capisco perché lo fai, eventualmente ti vengo incontro appena è possibile. Ci sono quindi delle pratiche trasformative che dovrebbero essere conosciute da tutti, la scuola dovrebbe metterle subito in atto. Per esempio l'insegnamento di Rosenberg, ma per dirne una, in cui si insegna proprio cosa serve l'empatia, come l'empatia, che è una qualità umana ben, piuttosto sviluppata, tranne che in certi dirigenti di Wall Street che ne hanno, mancano completamente, sono selezionati così. Ecco, l'empatia mi consente di capire i tuoi moventi anche se non me li dici, quindi di andarti incontro. Poi ti posso chiedere lo stesso se io ti vado incontro e tu stesso poi sei disponibile a venirmi incontro. Insomma, creare nelle relazioni non una competizione, ma una collaborazione in cui ci rendiamo gli uni un dono per gli altri. Cioè la vita, secondo alcuni, è un dono. Cioè mica te la sei costruita tu. Cioè, se non altro qualcuno ti ha allevato, ti ha dato il latte, qualcuno ti ha... Quindi hai ricevuto moltissimo. Ricordo uno scritto di Einstein che dice «Perché viviamo?» Perché? Che scopo? E lui dice «Noi veniamo in un mondo che è pieno di comodità. Ce le siamo trovate». E lui dice «Che tipo di mondo lasceremo? Peggio di come l'abbiamo trovato o meglio?» Ecco, quindi l'ottica del dono e del servizio credo che sia l'ottica che ci può cambiare la vita nella famiglia, dentro noi stessi e quindi anche nell'economia. Ci sono diverse economie oggi, per esempio l'economia, ci esiste l'economia di comunità, l'economia del bene comune, ce ne sono una serie già messe in atto anche in azienda che creano anziché competizione, collaborazione. E maggiore felicità infinita. Insomma, se un lavoratore lavora 8 ore al giorno, ma perché nel luogo del lavoro deve soffrire? Perché non deve essere un luogo di evoluzione? Ecco, quindi il concetto di scuola, naturalmente deve essere una scuola, a mio avviso io non ci vorrei più tornare, la scuola che ho fatto io, che era piuttosto carina, però io già all'asilo a 3 anni me ne sono stato a casa, sono riuscito ad andarmene, perché era una scuola autoritaria, scuola intesa in senso vero. Pensate cosa sarebbe, che tipo di economia diversa ci sarebbe se ogni sera ci fossero spettacoli di teatro, di danza, di musica, lezioni di filosofia, si crescesse culturalmente. Cultura tra l'altro vuol dire anche tessuto connettivo, è ciò che ci tiene insieme come comunità, dovremmo cominciare a pensare in altri modi, questo è un campo fantastico.